Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ci sono due modi per dividere un elastico. Il primo modo è usare le forbici. Il secondo modo è prendere l'elastico e dividerlo in questo modo. Ma c'è solo ed esclusivamente un modo per risanare un elastico: usare la magia. Appoggio la sigaretta così sopra la carta e noi vediamo che la sigaretta riesce a rimanere in equilibrio sulla carta da gioco. Vi mostro un trucco semplicissimo da realizzare con le carte da gioco. Chiederemo di scegliere una qualsiasi tra tutte queste carte. Tanto qualsiasi carta lui sceglierà, in realtà saremo noi a fargliela scegliere, perché solamente una tra tutte queste carte è diversa dalle altre ed è quella che noi vogliamo che lo spettatore scelga. La sua scelta comunque è sempre... Chissà perché quando si sente parlare di una persona che fa dei trucchi, un illusionista, gioca con le carte, fa scomparire le donne, le sega a metapole, fa riapparire via dicendo, qualcuno è sempre portato a capire, immaginare, pensare, cercare di vedere quale sia il trucco. Abbiamo sempre avuto nelle nostre frequentazioni uno zio, un amico di famiglia, un parente che da quando eravamo piccoli faceva dei semplicissimi giochetti, faceva scomparire delle palline, le faceva riapparire, faceva le cose, faceva scomparire un dito, le cose stupidissime che abbiamo sempre considerato come qualcosa che qualcuno poteva spiegarci semplicemente raccontandoci il trucco. Ci sono dei grandi maghi intesi come illusionisti, naturalmente non tocchiamo l'esperienza della magia come scienza della trascendenza, come maniera per movimentare, cambiare la realtà, come televendita di pozioni magiche contro il malocchio per arrivare alle versioni più moderne, più contemporanee, ma parliamo semplicemente con la sorta di arte di creare delle illusioni. Il bello delle illusioni è che tali rimangano. E quindi perché cercare sempre di capire quale sia il trucco? Ma perché si immagina che non sia possibile che un altro essere umano, dotato come noi, possa in qualche maniera violare alcune leggi della fisica, della logica, dell'apparenza, per cui certe cose che sembrano impossibili vengano fatte. Cosa c'è dietro tutto questo? Tutto questo c'è una maniera divertente di considerare il mondo, considerare la realtà come una sorta di universo simbolico che non sempre è necessario, non sempre è importante scoprire, anzi, molte volte la nostra percezione del mondo è proprio data dal fatto che non siamo preoccupati di capirlo. Beh, voi quante volte siete trovati di fronte a qualcuno che vi ha fatto delle cose, delle manipolazioni, degli scherzi, dei giochi, o vi ha mostrato le circostanze sulle quali ancora vi state interrogando come abbia fatto, quale sia il sistema, quale sia il modo? Beh, questa mattina cercherò per quanto possibile di darvi un'idea diversa, un punto di vista differente rispetto a questo mondo, diciamo, dell'illusione. Chi di mestiere fa l'illusionista probabilmente fa dei mestieri molto articolati, molto banali, di cui voi non cogliete l'aspetto illusorio, ma esiste chi proprio della sua vita ha scelto di fare l'illusionista come mestiere. 800240024, come vi ponete di fronte all'illusione, ma soprattutto ai fabbricatori di illusione? Ciao a tutti, sono il disillusionista Crazy Funny Things 5. Anche questo trucco è molto semplice, ci serve solamente una moneta come questa e andremo a farla apparire letteralmente dal nulla. La posizione che dovremo assumere sarà questa, quindi infilare la moneta tra il pollice e l'indice. Ok, tenete bene in mente questo passaggio. Scegliamo un numero a caso di due cifre. Mettiamo il 15. Sommiamo le due cifre. 5 più 1 uguale 6. Mariano Tomatis, buongiorno. Buongiorno. Mariano Tomatis è uno scrittore, art director, illusionista. Ha scritto assieme a Ferdinando Buscema un libro uscito in questo mese, L'arte di stupire, creare esperienze magiche per emozionare, incantare e sorprendere, Sperling e Kupfer. Lei non la posso definire un illusionista come nella vulgata tradizionale la gente è immaginata a pensare, il signore col frac che si fa uscire le carte dal polsino della camicia, cose simili. No, è qualcosa di diverso. Mi sembra, leggendo il suo libro, che C'è una visione un po' più ampia. Mi sembra di capire, di immaginare che siamo circondati da illusionisti, che chiamiamo registi cinematografici, chiamiamo uomini che comunque hanno un loro peso nella società, ma che in realtà hanno questa sottile, segreta passione di giocare con le illusioni. Ho capito male il suo libro? No, è esatto. Siamo, io e Ferdinando siamo due illusionisti a cui stava un po' stretta la dimensione del teatro e ci siamo resi conto che il mondo è un grande palcoscenico su cui chiunque può esibirsi, non dobbiamo consentire ai soli pubblicitari o politici di adoperare le loro arti illusorie, anche noi nel quotidiano. Distillando il cuore della magia, ci siamo accorti che la magia ha come obiettivo lo stupore e per noi lo stupore è una terapia, è una vera e propria terapia che consente di vivere meglio, di essere più consapevoli, addirittura di sviluppare una coscienza civile. Voi avete, diciamo, come missione di creare momenti stupefacenti in una fase della civilizzazione umana in cui lo stupore sembra scomparire, dal momento che la manipolazione dell'immagine, gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione sono, in realtà dovrebbero essere degli acceleratori di stupore, ma sono delle macchine castrano lo stupore. Io con il mio smartphone faccio cose molto più stupefacenti di quelle che devo da fare da bambino al mago che veniva a scuola elementare anno 1960, scuola rurale di una piccola frazione umbra, davamo 100 lire a testa e veniva il mago e faceva delle cose che a voi faranno sorridere, ma a noi sembrano veramente qualcuno che ci aprisse un'altra dimensione. Effettivamente dietro il libro c'è l'idea di riportare la nostra attenzione a queste cose, abbattere un po' la noia che anche la tecnologia c'è un po', ci sembra normale che chiamando una persona questa ci risponda all'altro capo del telefono. Immaginiamo 100 anni fa se fosse successa questa cosa, se non l'avrebbero chiamata telepatia piuttosto che chiaroveggenza. Lo stupore lo si può autosomministrarsi sintonizzandosi sugli aspetti stuporosi del mondo, oppure si può regalare agli altri senza bisogno di carte truccate o di conigli. Faccio un esempio stupido: organizzare una festa a sorpresa per qualcuno è alla portata di tutti, ma il momento in cui si accendono le luci, si vede la stanza piena di gente, quello è un wow che anche un bravo mago a volte ha difficoltà a creare, mentre è alla portata di chiunque. E avere una chiave d'accesso, avere una chiave di accesso a possibili dimensioni parallele, che non è nemmeno tanto difficile, uno starghetto semplice alla portata di tutti. Sentiamo se il nostro pubblico ha capito quello che stiamo dicendo, perché è un po' astruso. Io ho messo sui nostri profili Facebook un paio di filmati che a cui mi sono ispirato leggendo il vostro libro, Screen Grab, che è, diciamo, un cortometraggio che dimostra come la cattura di un fermo immagine di uno schermo e la riproposizione in un cortometraggio dà delle improvvise uscite dalla nostra normale percezione. Sentiamo Renato, buongiorno. Buongiorno. Vediamo come si è stupito. Sì. No, io non mi sono stupito. Io volevo, se le interessa, volevo raccontarle certo. di un bel trucco che fanno per chiedere l'elemosina. Glielo posso dire? Siamo qua per ascoltarla. Sì, appunto. Appare, ossia si mettono... c'è un signore seduto su una sedia, no? Però la sedia ha un solo bastone che lo regge. Lui ha una mano tesa e sembra che si tenga lui al bastone. E invece è tutta una storia di baricentro, in modo che la sedia... perché sotto c'è un tappeto, no? Sì, adesso gli spiego meglio. Renato, ha colto nel segno, complimenti. Allora, questa, fra i tanti format elemosinieri che appaiono periodicamente nelle città italiane, Roma, almeno da un annetto a questa parte, è stata invasa da questo gioco del bonzo sospeso. Sono dei signori, ma del Bangladesh, pakistani, devono sempre comunque avere dei tratti orientali, se no non funziona. Si vestono d'arancione, arrivano in una piazza romana, da una parte di fronte ci sono le chiese, ci sono i pellegrini, via dicendo. Si prendono un grosso sacco nero, si chiudono dentro il grosso sacco nero in 2-3, armeggiano due ore, 20 minuti. Si raduna la folla, viene giù il sacco e siede un signore, è per terra in posizione appunto di meditazione yoga, in mano a un bastone. Da questo bastone sta in perfetto equilibrio un altro signore che sembra proprio impalato sul bastone, e stanno lì, possono starci un paio d'ore, la gente mette il soldino, stanno lì immobili, belli. Naturalmente è facile capire che c'è una struttura, diciamo, a forma di S che passa da una piattaforma dove è seduto quello per terra, gli passa dietro la schiena, gli passa nel braccio, insomma c'è un tubo innocenti che attraversa tutto il suo vestito arancione, però l'illusione è fantastica. Allora, Mariano Tomatis, ci stiamo avvicinando a qualcosa di quello di cui vorremmo far capire al nostro pubblico, il bonzo sospeso? Mi viene in mente un'esperienza che hanno fatto alcuni amici americani. Hanno preso una vera statua, plexiglass, niente di valore, completamente bianca, l'hanno messa al centro di una piazza e gli hanno messo sotto un bicchiere per raccogliere l'elemosina. Hanno raccolto un sacco di soldi perché la gente si fermava e guardava e diceva: diamine, questo attore, questo mimo è veramente immobile. E sono riusciti con una statua finta a dare l'illusione che fosse vera, semplicemente aggiungendo un bicchiere. Una statua che chiunque avrebbe ignorato in altre condizioni, con un piccolo bicchiere davanti ha creato uno stupore per una giornata e hanno raccolto un sacco di soldi. Ora, il trucco è davvero banale, non c'è nemmeno qualcosa di fisico o di tecnico, è proprio l'idea di prendere una statua e darle però vita. Si appoggia sull'evoluzione rispetto alla percezione dello stupore. Funziona perché ci sono stati per alcune generazioni di mimi veri che stavano immobili, che poi sono stati deprezzati da un racket che ha preso dei poveri signori stranieri, gli ha messo dei costumi addosso che non sono più capaci a stare immobili, infatti ti chiedono l'elemosina. Quindi si ritorna alle origini, si ritorna a qualcosa che passi tutta questa catena di svelamento degli stupori. Certo, in particolare quello che mi colpisce è che il metodo utilizzato è di una banalità straordinaria rispetto all'effetto prodotto. Non c'è nulla, non c'è il tubo innocente, c'è una statua, ma l'idea di aggiungere un bicchierino fa sì che quella statua in qualche modo prenda vita nella percezione di qualcuno. Prenda vita e chi passa fa i complimenti per quanto è bravo il mimo a essere così immobile. Allora 80024, 0024 è il numero, vedete come il nostro ascoltatore ha colto in pieno, stiamo cercando di far capire come esista una rete di persone che una volta erano molto ben definibili con il semplice mago, prestigiatore, illusionista, che comunque contribuiscono ogni giorno a creare dei momenti di stupore nella nostra giornata. Ma non sono soltanto gli artisti di strada, o magari sugli artisti di strada c'è altro da dire. 800240024. Provavo a fare questi esperimenti facendo sì che le persone sedute a un tavolo avessero sembianze scheletriche. Mio padre si impressionò, e la magia a quel tempo non era come oggi che è diventata una cosa talmente normale, vediamo in televisione molti maghi che si esibiscono bravissimi eccetera, una volta la magia non esisteva e tantomeno la figura del prestigiatore, e quindi lui pensava realmente che qualche cosa non dovesse funzionare. Mi portò da questo psichiatra, un amico di famiglia, e lo psichiatra disse: no, guardi, dice, commendatore, suo figlio, dice, è una persona che ama la magia, è un'arte molto antica. Ecco, questo l'avrete riconosciuto, è Silvan, che in questo momento ha uno straordinario revival, riappare in televisione, molto ben restaurato, ma fa parte dei suoi poteri magici. Silvan racconta episodi suoi fanciulleschi in cui anche lui si è avvicinato a questa sorta di capacità di creare illusione, ha avuto un momento di sua fantastica evidenza quando era il mago della televisione per eccellenza, ma oggi ancora si difende bene. Ecco, fa parte della vostra categoria Silvan, Mariano Tomatis, o è qualcosa di diverso? Noi siamo assolutamente partiti da Silvan. In Italia non si può diventare illusionisti senza considerare se non si passa lui per il maestro assoluto. Il passo successivo che abbiamo fatto è chiederci se era possibile portare la magia fuori dai teatri e gridarla nelle strade con lo slogan di magia al popolo, perché crediamo che la magia e lo stupore debbano essere alla portata di tutti, anche chi non ha un lasso nella manica ma semplicemente si muove nel quotidiano e vuole creare stupore per parenti, amici, figli, fidanzati o partner. E ci siamo accorti che le possibilità di creare stupore nella vita dei nostri cari sono infinite. Ne abbiamo raccolte un numero molto grosso in questo libro, perché è il primo manuale per diventare maghi nel quotidiano senza fare il prestigiatore. Ma fermiamoci un secondo, che devo dare le informazioni del traffico. Lei intanto si prepari, Mariano Tomandici, che nella seconda parte della missione daremo qualche esempio. In un momento in cui in realtà la chiave della contemporaneità sembra quella di rispondere a delle domande, quindi svelare dei misteri, uscire dall'oscurantismo, un gruppo di artisti, maghi, creatori di immagine si preoccupano di fare il contrario, di recuperare i momenti di stupore e quindi ridare dei misteri che nessuno vorrà mai sondare, perché sennò se qualcuno te lo svela non c'è più stupore. Melog, cronache meridiane. Senta, dottor Roll, con la sua capacità più volte dimostrata di prevedere quale sarà il prossimo numero che c'è alla roulette, cioè lui era in grado di prevedere davvero, ci sono infinite testimonianze, però non aveva mai permesso a nessuno di giocare, semplicemente portava questi amici al casino di Saint Vincent e si divertiva per tutta la serata a prevedere i numeri che uscivano, impedendo a se stesso e anche agli altri di giocare. Dico, ma senta, dottor Roll, con questa sua capacità, perché lei non ne approfitta per sbancare il casino, non per lei ovviamente, ma per esempio per quel Cottolengo che lei molte volte ha aiutato. Dottor Missori, ha quel foglio in tasca? Dice sì, dottor Roll. Allora cadde come in un momento in trance, aveva una sua famosa bacchetta di bambù e in questo attimo di trance sembrò disegnare una frase nell'aria. Rientrò subito dalla trance, mi disse di aprire la tasca, io la persi, apersi il foglio. E c'era scritto: quello che lei mi chiede non posso farlo, perché se io sbancassi il casinò non sarebbe un'opera di... Questo era Vittorio Messori che in una trasmissione Porta a Porta parla del mago Roll, un grande mistero, che un mistero che non si è mai risolto. Era diviso fra due fazioni, che diceva che era un grandissimo illusionista, che diceva che era una persona che in realtà aveva potere e capacità di mettersi in contatto con realtà che non erano quelle umane, quindi modificava la materia a suo piacimento. Roll era molto amico di Federico Fellini, che è una delle persone che nell'illusionismo ha posto le radici essenziali della sua arte, ma è anche citato da Dino Buzzati, che è un autore che cita nel suo libro Marianno e Tomatis, ricordo, l'arte di stupire, creare esperienze magiche per emozionare, incantare, sorprendere, Sperling e Kupfer, scritto insieme a Ferdinando Buscema. Beh, Dino Buzzati viene citato in questo libro come l'autore di un racconto del 54, l'anno in cui sono nato io. Si parla di una città in cui c'è una parola impronunciabile, che nessuno pronuncia, non può manco essere scritta, se viene scritta scompare. E io ricordo che Buzzati era proprio una chiave di racconto. A me leggeva mia nonna, ero piccolo, e uscendo sul Corriere della Sera settimanalmente, che lasciava proprio il senso dello stupore, non avevano mai una fine. Cioè, nonna, mi racconti una di quelle storie che non finiscono? Era proprio questo il senso. Mariano Tomatis, vediamo di chiarire, prima ancora di entrare nel vivo di quali sono poi gli espedienti quotidiani per stupire la gente, su vicende, personaggi tipo Roll, in cui c'è sempre dietro l'idea fumigosa e sulfura che possano essere persone che hanno fatto patti con forze occulte e per questo stupiscono. Non è questo, mi sembra, il terreno in cui vi muovete voi? Ma un capitolo lo dedichiamo a lui per fare una serie di esempi di cose che si possono fare e sono perfettamente riproducibili per produrre emozioni simili a quelle che creava lui. Faccio un esempio: voi siete a casa di qualcuno, uscendo senza farvi vedere prendete la sua chiave, la chiave di casa la buttate nel portaombrelli, poi sparite, andate a casa e dopo un po', magari sono passate un po' di ore, lo chiamate, lui sarà preoccupatissimo perché non trova più le chiavi di casa, voi vi sintonizzate mentalmente e dice: una visione, vedo, sai dove sono finite? Le vedo da qua, le vedo in un luogo buio, ma vuoi vedere che sono nel portaombrelli? E la persona troverà nel portaombrelli le chiavi. Sì, ma se a me lo facesse un amico mio, uscirei di casa per andarlo a appendere al muro, sgamerei subito. Come faccio a pensare che possa essere un potere occulto? Si gioca anche molto sulla capacità di intuire l'ambiente in cui ci si muove, penso. Con certe persone può essere fatto, persone che hanno una facilità nel credere appunto a queste cose. È importante l'analisi, diciamo, ambientale prima di muoversi con un esercizio, con un esempio? Assolutamente, questo è uno degli aspetti fondamentali del nostro approccio, è che non esiste una magia che funziona con tutti. La magia, esattamente come un regalo, deve essere studiata su una specifica persona, su una specifica classe di persone. Esibirsi per un bambino è diverso di esibirsi per un adulto. Facciamo esempi di stupori che si possono provocare su bambini molto giovani, cose che funzionano invece con i più grandi. Ma un esempio per noi grandi, se vi capita di uscire dall'autostrada in quei vincoli della tangenziale dove si paga un fisso, che ne so, 2 euro, se voi pagate per voi e anche per la macchina dietro, poi sparite. Una volta che arriva quello dietro, sta per pagare, il casellante dice: no, guardi, è già pagato. Beh, quello è un momento di stupore che voi gli avete regalato senza sapere chi è, semplicemente perché credete che buttare stupore nell'universo in qualche modo sia un gesto buono. Lui si chiederà per tutta la vita, diciamo, come mai ha pagato l'autostrada, si farà dei film. Ma quale pazzo può aver fatto questa cosa? Quale angelo, quale entità astrale, quale... E siete stati voi. Mi viene in mente come, diciamo, l'ispiratore della serie televisiva Lost, Abrams, che da bambino comperò in un negozio di trucchi una scatola in cui c'era scritto si pagava, mi sembra, $15, ma qua ci sono trucchi per $50. Per 35 anni non aprì mai questa scatola. Qual era il senso? Ne ho una a casa mia, perché ho voluto fare l'esperienza. Anch'io suggerisco a tutti di farla, di acquistarla e lasciarla chiusa, perché l'immaginazione riempirà quella scatola di cose molto più meravigliose di quelle che scoprireste aprendola. E questo tipo di gioco lo facciamo anche nel libro, perché a un certo punto mettiamo una piccola nota a piè pagina e indichiamo non andare a vedere che cosa dice. Qualcuno resiste, alcuni corrono a vederla, però è una scelta interessante, perché resistere ci restituisce una dimensione, credo, anche creativa, perché non sapere ti spinge a chiederti, a ipotizzare, a fare... Sentiamo Andrea ascoltatore. Andrea, buongiorno. Buongiorno a voi, seguivo con molta attenzione quello che stavate dicendo, stavo in macchina e volevo portare alla vostra attenzione, quella di chi ci ascolta, lo stupore che provo io ogni volta. Premesso, io ho un bambino disabile, un bambino di 3 anni e 7 mesi, sono il papà di un bambino autistico e fondamentalmente questi bambini non riescono a guardarti negli occhi. Luca, sono 2 anni che adesso sta in terapia, sta facendo dei miglioramenti e dei progressi notevoli e sta iniziando a guardarci. Mi dovete credere, lo stupore che provo quando gli occhi di mio figlio incontrano il mio sguardo. Beh, non è un gioco propriamente di illusionismo, è suo figlio che fa dei progressi, riesce a sostenere lo sguardo. No, ma questo per dirle dello stupore che si può provare anche da situazioni di questo genere. No, questo rende bene l'idea, Mariano Tomatis, rende bene l'idea, perché in fondo lo stupore è dato da qualcosa di imprevedibile. Come il bambino autistico che ti guarda negli occhi, vuol dire che è stato ben trattato, riesce a acquisire, diciamo, delle abilità relazionali che non aveva all'origine, quindi vuol dire che sta funzionando. Ecco, mi dai qualche esempio di atti imprevedibili che possiamo causare, come quello lì del pedaggio dell'autostrada che noi paghiamo, semplicemente per il solo piacere che una persona rimanga stupita, persona non vedremo mai più nella vita, nemmeno noi avremo contezza di quanto sia rimasto stupito. L'iniziativa bellissima che purtroppo in Italia si fa sempre meno, ma che ho visto sta un po' riprendendo piede, è il caffè sospeso, il fatto di lasciare un caffè pagato in più, che è la stessa idea del pedaggio, adesso lo si fa con i libri. Un intero capitolo dell'altro libro dedicato al dono, perché in una società che è sempre più egoista, autocentrata, eccetera, il dono è una cosa così insolita, così inaspettata, spesso quando non richiedi un ricambio, perché non può essere fatto, non sai chi te lo ha fatto, può scatenare delle dosi di stupore gigantesche. C'è una bellissima storia di Pablo Neruda che racconta che nella sua infanzia ricevette un dono da parte di un bambino di cui non conobbe mai l'identità, una stupidissima e orrenda pecorella giocattolo, che lo sconvolge al punto da informare tutta la sua poesia. Lui lo racconta come un momento fondativo della sua poesia, per cui fare un regalo di questo tipo, lasciare su una panchina un libro, può cambiare la vita di una persona, e il racconto di Neruda lo dimostra oltre ogni... Sì, è sorprendente alla fine di questa trasmissione, che per molti sarà sembrata astrusa perché non tocca la concretezza dell'attualità, della cronaca, via dicendo, che in realtà quello che ci spiegano i nostri autori, che sono partiti come come illusionisti, che sono categorizzabili, che oggi creare dei momenti di stupore significa anche fare degli atti totalmente altruistici, ma proprio perché immotivati, proprio perché non sotto i riflettori di quell'altruismo che vuole sempre una gratificazione e sempre un premio. Provate a stupire il vostro prossimo, vedrete che anche se non avrete un immediato ritorno, vi darà a voi molta più sensazione di leggerezza. Oggi la leggerezza è in realtà la moneta più preziosa e più introvabile. A domani.